Then I went down into the basement where my friend, the maniac, busies himself with his electronic graffiti. Finally, his language touches me because he talks to that part of us which insists on drawing profiles on prison walls. In that moment, poetry will be made by everyone, and there will be emus in the zone. Inizia ora Music for You. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sandonà 102.2, Radio Cervo 97.800, l'amplissima banda di Radio Sandonà che ci ospita e ci ricorda che anche per questa settimana siamo in onda. L'amplissima e spaziosa quasi quanto un bidet. Ben ritrovato Daniele Terzariol, perché anche qui è comunque tutto bianco e di ceramica. Buonasera Daniele Terzariol, buonasera, ben ritrovati. Favato. Abbiamo un ospite anche questa sera. Un ospite. Sostituisce le nostre profonde lacune. E le nostre inutili esistenze, questi sono i... I miei primi secondi, l'ho detto in italiano. Esattamente. Può andare My bene. First seconds. Vi siete offesi se l'ho detto in italiano. Buonasera a tutti, intanto no dai, non ce la siamo presa per questa volta. Io e l'italianistica. Scende un velo pietoso subito, chi sono i My First Seconds? Allora, intanto ci presentiamo, piccolo diciamo presentazione. Io sono alla batteria Marchetto, abbiamo qua il mio collega al basso e voce, Steph. E davanti a me il bellissimo Agugiaro, detto Agu dai chitarrista e cori. No, e in effetti questo ragazzo è davvero bellissimo. Io ce l'ho a fianco e sono veramente... Cioè, potrebbe concorrere alla palma del più bello nello studio. Io veramente ti dico, sono qua da 10 minuti, ho l'ascella sinistra che è grondante. Anche a noi tutte le volte a prove fa questo effetto. Sì. Sei un ragazzo desideroso, Favotto. No, ma... Di dare e di darti. Sì, ma perché questo autunno che si avvicina... un focolare, capisci? E un chitarrista ci sta sempre. Sì, sì, te sì, lo sì. Metti a lato del soggiorno, sì, un po' come il caminetto, come la frittella alle fiere, quelle cose là. Per cortesia, fai qualcosa di buono. Fai delle domande serie. Faccio una prima domanda. Sì, grazie. Bene, salve My First Seconds. Allora, siamo... voi innanzitutto chi siete? Cosa ci suonate? Allora, noi ci definiamo un gruppo pop punk. Il nostro stile è... ma rispecchia diciamo i Ramones, se vogliamo fare un paragone, diciamo a scomodare i morti praticamente. Sì dai, li facciamo rovesciare nella tomba, sbattere dappertutto. Noi suoniamo un po' punk in italiano, siamo nati nel 2007, nell'estate del 2007 a Ceggia, paesino provincia di Venezia. Vuol dire che hanno 3 anni, sanno già parlare e scrivere tutto visto? Quanto. Esatto. Quando io e te eravamo ancora con i regoli. Ragazzi precoci. E suonano degli strumenti. Ma tu pensa, ok, sì, scusateci. Niente. Allora, nascete a Ceggia e si può capire che in un'estate a Ceggia non ci sia tanto da fare. Allora sì, la no, gente proprio si per mette... niente. Specificate dove è Ceggia, per cortesia. Sì, no, in inverno ci si ammazza delle risate. Però... Ceggia, ridente cittadina del Basso Piave. Del Basso Piave. Possiamo dire del Basso Piave. Che uno si collega a Sherwood e sente Ceggia. Ceggia, cioè, cosa? Un attimo di toponomastica, per cortesia. E quindi Ceggia, ridente cittadina del Basso Piave, famosa per che cosa? Ceggia? Adatto per i Natale. Carri mascherati. Esatto, buttati sotto in agosto, sotto un carro mascherato, foto. È la tua fine più degna, mi raccomando. È la tua fine più degna, quella. Ma sotto vestito il carro... da Gabibbo, che è uno dei nostri sogni nel cassetto. Possiamo cominciare già a mettere su qualcosa? Noi lo facciamo. Perché ci è stato chiesto, proprio istruzioni doverose, di accorciare i nostri tempi di parlata. La nostra capo, che la salutiamo, la Billa, un pochettino. Sì, salutiamo la nostra capo. Ciao, amore. Saluto anch'io. Sì. Ciao, Billa. È tanto una bella donna, bisogna dire. Ci ha ospitato, è stata anche gentilissima. Sì, veramente. Noi saremo sempre debitori. Cioè, sì, saremo sempre debitori e la consideriamo un po' come la nostra terza mamma. A questo punto... Qual è la seconda? Ah, no, la mia e la tua. Esatto. Okay. Buon, perfetto. Possiamo cominciare con i Dead 60s. Esattamente, giusto? Dead 60s, gruppo di ignobili e ignoti. Sì, di inutilità proveniente da Liverpool. In sostanza, cosa fanno questi? Un misto di rock and roll, ska e un po' di garage. Ascoltateveli perché non fanno schifo, secondo noi. Non fanno schifo, sembrano i classici cori da stadio, non quelli del Verona Hellas che noi odiamo. Sì, anche perché poverini, tutta l'Africa se la prende in quei casi lì. Sti bravi ragazzi hanno aperto un bel po' di concerti, tra cui Supergrass Music, Coral Trills e i nostri fidati Casabian, che ci danno una mano nella sigla tra poco costituita grazie al featuring dei Gain on Top. Mamma santa. Noi accendiamo un cero a quei ragazzi. E a questo punto andiamo a sentire questi Dead 60s. Play per noi. Stand up. Stand Up dei Dead 60s, questa è Radio Share 97800, Radio Sondona 102.2, siamo tornati a Music for Youth ospiti questa settimana in My First Seconds. Esatto, ne stavamo parlando prima di questa interruzione che ci è stata regalata dai Morte 60, stavamo parlando con i My First Seconds. Allora, ma cari My First Seconds, una domanda che sorge spontanea è: perché My First Seconds? Ma ce lo domandiamo anche noi. No, dai. Il nome nasce da, diciamo, una nostra convinzione che abbiamo noi tre, che sostanzialmente i primi secondi di ogni cosa che fai sono quelli più belli, quelli che vivi di gusto, diciamo. Dopo tutto diventa, non dico noioso, ma quasi monotono e ripetitivo. Ma questi 30 seconds to Mars, a parte che guardano verso Marte, potrebbero aver pensato la stessa cosa? Sì. Io non li sopporto. I 40 seconds to Mars? Sì, proprio, guarda, cioè, potessi... Poi è 40 seconds o è 30? 30. 30. Potessi affittare un trattore o sì, un ducato... O e un carro mascherato. Quello di Ceggia. E lanciarglielo addosso a 200 all'ora, gonfio di cemento pralinato d'acciaio, lo farei molto volentieri. Non dite che sono il vostro gruppo preferito, perché... No, passerei anche in retro. Ah, oh, per sicurezza. Ci troviamo d'accordo. Bene. Molto, mai. Bene. Molto bene. Grazie per il supporto morale. Quindi i primi 4 secondi di quando ci siamo conosciuti sono stati la nostra migliore prova, praticamente. E quanto è passato? E sarà un 15 anni buoni, quindi siamo proprio veramente al marciume ormai, cioè... Possiamo anche lasciarci. Esatto. Trascorreremo le nostre serate in silenzio, sì, a fissare il vuoto pneumatico, esatto, o il ducato lanciato contro i 30 seconds to Mars. Esatto, che sono, li allineiamo tipo dei birilli, no? Sì. E poi via, lanciamo. Queste tue idee un giorno, io spero, prenderanno vita. La prenderanno forma. Il gruppo parte così o vi cambiate? No, siete sempre gli stessi dall'inizio. Siamo, vero? Sempre gli stessi dall'inizio e sarà così fino alla fine. Ovvero, se qualcuno lascia... Lasciano tutti un po', perché diciamo siamo prima di tutto amici più che... Sì, anche musicisti, dai. Sì, dai. Ma è stato stabilito di contratto che ve ne dovete andare tutti insieme? Sì, sì, ci hanno proprio detto o così o andate via. Andate a fare i carri. Io invece continuerò, Se tu vai via io continuo. Ma anche se tu vai via io continuo. Ah, sì? Sì. Vorrei proprio vedere con quelle tue manine sul mixer. Con quelle tue manine obese sul mixer. Vabbè, io non sono capace di usare il mixer. Ricordati che la lezione impartita dalla Billo paga questa trasmissione e noi accorciamo i tempi e siamo già al secondo pezzo della settimana. E noi andiamo a presentarvi i Rancounters. Ottima pronuncia, sì. Grazie. You don't understand me, cioè tu non mi capisci neanche, assolutamente. Neanche tu tante volte. Ogni ho tanto delle penso, esigenze che tu non consideri. Ogni tanto penso di parlare una lingua totalmente diversa dalla tua. Questo lo dice anche Jack White a Brendan Benson, che è l'altro fondatore di questo, esatto, side project dei White Stripes. Perché? Perché Jack White non sa che Brendan Benson in realtà è turco. Davvero? No. Ah. Però era un motivo per cui non si potevano capire. Se mi volevi cogliere di sorpresa, ci sei ottimamente riuscito. No. I ragazzi affondano un po' nei 60s. Sì. Come facevano i Morti 60 poco, esatto, fa, e qui il motivo circolare di Music for Youth che anche, torna sempre. Anche questi affondano nel senso che proprio cioè, stanno soffocando. E niente, affondano nei 60s. Sono un gruppo che a noi ci ha colto un po' di sorpresa, nel senso che abbiamo iniziato a un po' apprezzarli recentemente. Non ci dispiacciono per le atmosfere che spaziano un po' dal rock, un po' pop, però cioè, allegro in qualche modo, no? Dall'album, cioè, che presentazione, sì, schifosa. Appunto, dall'album Consoleless of the Lonely, 30 Seconds to Mars, imparate qualcosa di buono. Questi sono i Rancounters, You Don't Understand Me. Understand. You Don't Understand Me dei Run Contiers. Siamo ritornati a Music for Youth, purtroppo per le vostre bene amate orecchie. E purtroppo anche per i 30 Second to Mars, che loro non lo sapranno mai, ma che stiamo offendendo ingiustificatamente. Se vuoi comincio anche con tutto il parentame vario, non ho assolutamente problema a riguardo. Tra l'altro Second to Mars, esatto, quel gruppo lì fa un video in cui lui è vestito da giapponesina e sei veramente ingiustificabile dal mio punto di vista. Io ripristinerei l'olio bollente in alcune occasioni. Ginocchio sui ceci, tutti dietro la lavagna. Ascolta, questi bei ragazzi che sono nostri ospiti, sì, dicono che la nostra radio è pop. Sì. Potrei risentirmi anche su questo. Avrei da discutere. Va bene. Ma in realtà è solo il titolo del loro pezzo. Eh sì. Per allora, cui sono perdonati. Allora io vado a fare una domanda intelligente ai ragazzi qui presenti. Una settimana per prepararsela. Sì, io voglio, infatti, vorrei dire questa cosa. Sì, da parte mia ci vuole sempre comunque un po' di rodaggio. Allora, cari My First Seconds, di nuovo. Abbiamo innanzitutto cambiato il rispondente, ossia chi ci risponde. Chi abbiamo al momento? Basso e cantante, Steph. Dopo passeremo la parola al bellissimo Davide Guzzato. Vorrei far notare che il giovane che abbiamo qui di fronte ha una frangia che è imperdibile. Bellissima, bellissima. Perché fai parlare il batterista prima di te, che sei il frontman? Perché aveva mania di protagonismo e abbiamo dovuto concedergli un po' di tempo. Ascolta, il cantante è frontman di solito. Ma perché secondo me il problema con i batteristi è che stanno seduti e la gente li vede meno, e c'è un po' di complesso di inferiorità in questa cosa. Bisogna dargli le loro possibilità. Poi gliela facciamo come domanda. Adesso lo vedo qui che lo vedo assorto. Che freme. Esatto. Pallido e assorto. Allora io ritento di fare la mia domanda. Sì, che scusa. I My First Seconds sono qui sostanzialmente perché hanno appena fatto un disco, vero? Esattamente, La Macchina del Tempo, che è uscita diciamo a inizio settembre. Ringraziamo Michele delle Cattive per aversi registrato, che ha lo studio a Vicenza. E niente, un CD pop punk di 10 tracce. Qual è la durata perfetta di un CD? Qual è la durata? La durata perfetta di un CD. Io non mi ricordo, però è stato fatto uno studio scientifico sulla durata perfetta. Volevo sapere se loro si avvicinavano. 22 minuti mi sembra che sia la durata giusta, come il nostro, mi sembra, oltretutto. Anche il vostro è 22. Ma mi sembra di sì. Mi non... fa pensare sta cosa, ma deve essere, sì, deve essere 22. Deve essere 22. Sì, eh sì. La capra lato tuo, quella gialla, sì, che nessuno può vedere, però io ce l'ho sempre in faccia, dice di sì. Sono 22. Bene. E conferma. E si accende. Sì. Perché Radio Pop? Cioè, i titoli li date a caso o c'è anche un minimo di genesi rispetto a questa cosa? C'è della logica in tutto ciò? Dipende da come ci svegliamo la mattina, diciamo. Bene. Di solito la canzone è già preparata, dopodiché prendiamo una parola del testo e se piace, bene, se no ne inventiamo un'altra. Ora fammi molto questa, semplicemente. Fammi questa grande cortesia di presentare la traccia che io schiaccio play. Noi siamo i My Four Seconds e questa è Radio Pop. Ya di tanto. una melodia di tanti anni fa. Non so cosa darei per trovare una melodia pop da mettere sopra tre accordi punk rock. E questa era Radio Pop dei My First Seconds sui 97.8 di Radio Sherwood e sui 102.2 di Radio San Donà. Si parlava prima che le vostre influenze si affondano nei Ramones e qua si sentiva. Tra l'altro anche i Ramones fanno una canzone sulla radio, no? Che è Rock and Roll Radio. Esattamente. Ti vedo abbastanza informato sul genere. Sì, insomma. No, perché suonavamo insieme in un momento no. E io ero quello che portava il tè. Allora, questa canzone qui noi la troviamo sul disco? No. Bene. È una domanda telefonata? Sì, prego, spiegate perché è una domanda telefonata. Perché è una domanda telefonata? Perché voi cosa ci fate di questa canzone? Allora, è un no perché il CD è talmente brutto che abbiamo evitato di farle ascoltare per radio. Stiamo scherzando. Radio Pop l'abbiamo fatta sentire oggi perché è in progetto di fare un piccolo video su questa canzone, che molto probabilmente, se restano i programmi quelli che così come sono ora, andremo a girare a Livorno. Pensa te, Livorno, patria del compianto Cristiano Lucarelli. Cristiano, se ci stai ascoltando, ti prego, torna a Livorno. Sei sempre nei nostri cuori veneti, però... Tocca pensare ad Alessandro, che è tuo fratello. Esatto. Siamo stufi di fargli da balia, anche perché ha più anni di noi. Esatto, avrà un 35 anni. Acuto difensore del Parma, tra l'altro, Alessandro. Sì, ma finito quanto suo fratello, tornano a Livorno. Sì, tornate a Livorno, per piacere, voi e Ferzel. Sì, ha scritto un libro sul comunismo. Ferzel? Sì, io, Lucarelli e il comunismo. Quanta meraviglia. Non sto scherzando, cioè. Ferzel, tra l'altro, non mi ricordo se è svizzero o francese. E se produce pane anche. E i Ferzel, i famosi Ferzel. I famosi Ferzel. Quelli da dove, dal Trentino, esatto. Per cui, se fate un salto a Livorno, fateci le grandi cortesie di trovare Cristiano e portargli la nostra parola. Esatto. Magari, volentieri. E secondo me Ferzel è svizzero, ora che ci penso. Bisogna chiedere a Berami. Berami è biondo. Sì, ma è svizzero. Cioccolata per tutti e dei cucù. Andiamo avanti. Vuoi fare delle domande costruttive ai ragazzi o... Certamente. Vedi, sì. Tu. Sei tu il padrone qua stasera. Grazie. Abbiamo detto... che avete prodotto questo CD. Come è andata la produzione? Dove l'avete fatto? Tutto quello che mi sai dire sulla produzione di questo oggettino di plastica. Bene, è una domanda che so, quindi posso dare anche la risposta. Bene. Niente, allora abbiamo registrato a Vicenza, nello studio del bassista delle Cattive Abitudini, Michele, che ringraziamo. E niente, siamo andati su, diciamo, questa estate, una settimana. E questo sempre perché a Cesa non c'è tanto da fare d'estate, vero? Ma non solo d'estate, come dicevamo prima, ma soprattutto d'inverno non c'è niente da fare. Niente, siamo andati a registrarlo e è venuto fuori un ottimo lavoro. Benissimo, allora adesso lo state portando un po' in giro, ci dicevate prima, parleremo dopo delle date. E avete qualcos'altro in cantiere? Perché vi vedo tre cervelletti che ragionano. Sì, momentaneamente stiamo producendo altre canzoni da poter mettere in un eventuale CD. L'idea era di poterne fare un altro inizio questa estate, ecco, per uscire con qualcosa di nuovo. I ragazzi producono qua, sì, capito? Cioè, quello che noi non facciamo, come Ryan Adams, potrebbero, esatto, battere il record degli 8 CD in un anno. Eh sì, Ryan sotto Adams diversi quella pseudonimi. Volta, Ryan Adams quella volta ci ha fatto questo grande piacere, poi l'hanno confuso per Brian, lui ha preso a pugni un giornalista. Sì, è volata anche una bottiglia nel vetro. E poi adesso è brillantemente in carcere. Saluti Ryan. È tuttora in carcere? No, non penso sia anche uscito, perché a loro danno la condizionale di solito. Quella, beh, che non dovrebbe essere data a noi, esatto, ancor meno l'ora d'aria che ci viene data a disposizione su codeste frequenze. Speriamo che i nostri primi secondi aprano i Kaiser Schiff prima o poi. Beh sì. Dei simpatici ragazzi di Leeds, sì, passati in quel di Pordenone, assieme agli Echo and the Bunnymen. È qualche tempo fa, penso la scorsa estate. Bravissimo. Ricorda che si chiamavano Parva, i Kaiser Chiefs, prima di prendere l'attuale nome. Bel nome, radio friendly proprio, veramente. Sicuramente meglio di quella nostra trasmissione, che molti ancora ci chiedono come si pronunci. YOUTH per i non anglofoni, ricordatevi questa cosa. Grazie Favotto. La maggior parte delle canzoni di Kaiser Chiefs sono finite su un gioco sul quale noi possiamo perdere parecchio tempo, che è Pro Evolution Soccer. Assolutamente. Ah, no? Sì, assolutamente. Due cervelli regalati ad uno schermo con dei calciatori finti che corrono, signori. Tra l'altro, una tristezza e un'ipocrisia d'altri tempi. Dimmi. Un saluto anche a Castolo. Sì, che Castolo, grande Castolo. È il re della Master League. Queste cose, cioè, queste cose sono un po' da annebbiati mentali, però... Sì, le capiamo io, te e sti quattro cialtroni che abbiamo in studio. E probabilmente chi ha disegnato Pro Evolution Soccer. Voi, popolo ignorante di Pro Evolution Soccer, andate a vedere chi è Castolo. Castolo Ivarov. Sì? Romaldinho, aggiungerei. Vedi che sono documentati. Le sanno. Minanda. È vero. Minanda, buon centrale, tra l'altro, ti dura fino alla fine. Vai pure con una canzone prima che scadiamo. Ci penso subito. Never Miss a Beat dall'album, non me lo ricordo più. Anche Ximelex. You're Truly Angry Mob, penso. Esattamente. Questi sono i Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs, Never Miss a Beat, Radio Shelv 97800, Radio Sandona 102.2, Music for Youth. È il tempo dei contatti, Alvise Favotto. Ti vedo strapronto. Allora, radioascoltatore di Music for Youth, sei chiuso in una stanza con delle palle di cannone, un soffrittino in umido e un vecchio megafono? Music for Youth MacGyver, chiamaci allo 0421 560993 o mandaci un fax allo 0421 560994 e io e Lele con il nostro coltellino svizzero e delle camicie abbastanza improponibili arriveremo da te e da due balle, un soffrittino e un vecchio megafono estrarremo che cosa? Un carro mascherato e chi lo guida in My First Seconds. Ottimo Favotto, te ne esci sempre bene, cioè io veramente temevo non so cosa, avevo seriamente paura questa volta. È stato bello da parte tua. Ora vi ricordo anche che potete mandarci una mail a radio@radiosandona.it e che abbiamo una serie di virulenti contatti web. Che vi dice Terza Riol, perché io non li ho ancora imparati. Allora, il gruppo in Facebook Music for Youth on Air, YOUTH per i non anglofoni e qualsiasi altra popolazione che non ne capisce niente di questa trasmissione da ben un anno di programmazione. E anche i gibboni, celebre scimmia africana. musicforyouth.wordpress.com è il nostro blog parallelo al quale scaricare questa puntata in podcast o in streaming ed in feed RSS anche per gli abbonati di iTunes. C'è anche un blog un po' più cialtrone chiamato lato b-side musicforyouth.tumblr.com. Sì, perché la pronuncia anche di Tumblr è strana. L'unico problema è che quelli di Tumblr ci hanno costruito sopra un marketing, noi al massimo dei castelli di sabbia. Esatto, o dei panettoni a Natale. Vogliamo chiedere al nostro prossimo intervistato come pronuncerebbe Tumblr? Dipende come si scrive. In effetti dovevi chiedergli come si scrive, esatto. Non come si pronuncia. Come pronunceresti tu una cosa scritta Tumblr? Tumblr? Come si legge? Io potrei ritirarmi. Va bene. Facciamo allora, lasciamo la puntata ai nostri ospiti. Noi adesso. O perlomeno proponiamo questa stessa domanda al frontman attuale del Teatro degli Orrori, ex One Dimensional Man. Il prossimo pezzo in programmazione. Today. One Dimensional Man, trio originariamente un trio rock and roll che a noi è piaciuto molto e di cui anche possiamo dire che la nostra nativa Sandona può vantarsi perché dà i natali al batterista. Dai i natali al batterista Dario Perissutti, io ti saluto. Anche io, perché ti conosciamo, insomma. E il batterista, oggi ex batterista, perché i One Dimensional Man si sono recentemente messi di nuovo in pista con una formazione diversa, mentre Dario si è appiattito sulla dimensione di individuo consumatore a una dimensione per la felicità di Herbert Marcuse, che praticamente suggerisce, tra virgolette, il titolo a questa band. Adesso questo fa lo studiato, comunque si incendierà da solo nei prossimi 5 minuti, di solito come gadget in qualche minuto esploderà. Il gruppo, il gruppo ha vinto anche un May per il loro ottimo video al quale è stata questa canzone, che è Tell Me Marie, che un è estratto... il singolo dell'ultimo album pre-disfacimento. Sì, pre-disfacimento, perché non possiamo definirlo in alcun altro modo. One Dimensional Man, ottimo concerto al New Age. New Age che sì, c'eravamo, ci è piaciuto molto. Non finiremo mai di ringraziare per la loro ampia disponibilità e anche il parcheggio retrostante. Ampio parcheggio, sì. Come i migliori supermercati. One Dimensional Man, Tell Me Marie, questo è Music for Youth. Your power hands don't move. I can't. Gli uomini in una dimensione, Charlie Marie, questa è Music for Youth, bentornati Radio Shadow 97800, Radio Sandonà 102.2 in onda sulle frequenze di Padova il martedì in orario d'ufficio 17.30 su Radio Sandonà alle ore 22 del mercoledì, in replica lunedì successivo alle 21, in streaming ovviamente sempre siete voi a governare questa trasmissione. Favotto ai nuove domande, il microfono è già girato. Tell me Marie, tra l'altro, dimmi Maria, Stuarda. Ti ricordi quella volta, quel Maria butta la penna, tu cosa Maria, stai dicendo? Butta la penna, non la penna, la pasta. La pasta, ricordi? Che bellezza. Una gran pubblicità, parliamo con i My First Seconds. Allora, si parla, abbiamo cambiato interlocutore di nuovo. Ciao a tutti. E abbiamo il suonatore di chitarra. Da quando è che suoni chitarra? Da 7 anni. Beh, bene. Pare. Sì, ma fatti male. 7 anni molto, molto randagi. Molto scialidi. Era una citazione di Offlaga di Scopax. Bravissimo. Mi sono dimenticato il resto. Ma non importa. Suoni la chitarra e ti è piaciuto subito il punk così? Oppure, cioè... No, diciamo che me l'hanno fatto conoscere loro alla fine. Perché quindi... prima non ero un grande estimatore. Non è. Invece poi conosci questi altri due qua che ridono e ti trovi a suonare... Mi trovo a suonare pop punk dal nulla. Pensa che meraviglia. Poi io ascolto tutto. Ah, ok. Mi piacciono soprattutto i 30 Seconds to Mars. Ah, sono serio? Oh, i miei preferiti. Hola. Per quello prima era imbronciato questa cosa. Infatti aveva la testa bassa e detto basta. Cioè, ma sai, io ho detto, sarà, avrà solo pensieri alti e scollegati. Avrà cioè, una tristezza interiore sto ragazzo. Invece gli stavamo offendendo i suoi preferiti. Era una città. No, la stavo scherzando. Ah, okay. No, la stavo scherzando. Per carità. Pensieri alti e scollegati? La sai, vero? Sì, la so. Era una citazione anche questa di Offlaga. Sì, infatti. Super Chiome, tanti, la prima traccia di Bachelite. Tanti capelli tutti insieme. Ci stava dicendo, 7 anni di chitarra, poi conosci questi, ti capisco. E ti convertono al punk. 7 anni a fare il virtuoso per poi fare gli accordi. Bene, a questo punto, dopo aver gettato nel cesso del conservatorio, tu ti trovi a suonare nei My First Seconds e qui, chi li scrive i testi? Chi li scrive le musiche? Cosa fa? Vi trovate tutti insieme? Scrivete? Allora, diciamo che i testi vengono partoriti soprattutto dal batterista, perché è lui. Io e il bassista ci proviamo, ma non siamo capaci. Bene. Perché il bassista è un po' dislessico. Mm. Ha un po' di problemi. Mentre io scrivo canzoni troppo sdolcinate e abbastanza schifose. E vabbè. Sono un po'... troppo zucchero, dai. Sarà esatto. Bello. Invece per le musiche, ognuno si arrangia? Cosa fate? No, per le Vi musiche... trovate e provate? Per le musiche, sì, adesso il bassista sta cercando di accaparrarsi tutto il merito, però in realtà non è così. No, le musiche ci troviamo tutti assieme, le componiamo assieme. Mm. Magari a casa proviamo a fare un po' di esercizio, buttiamo giù qualche giro, poi alla fine ci troviamo e se ne esce il prodotto. Prodotto finito, tra l'altro loro non te l'hanno detto a me fuori dagli studi, loro scrivono prevalentemente o sopra i tetti o sottoterra. Pensa. E da qui noi ci colleghiamo. Sottoterra in cantina, voglio sperare. Alla cantina sociale di Ceggia, dove parcheggiano i carri mascherati durante l'anno. Ah, non era lo zuccherificio, no, perché è chiuso, hai ragione. Mi stavo collegando perché anche i Gogol Bordello parlano di qualcosa che ha a che fare con tetti e sottoterra. Eh sì, Gogol Bordello, tra l'altro, che recentemente ci hanno fatto visita proprio in quel del Festival di Radio Sherwood l'estate scorsa. Siamo andati a sentirli, erano in una serata fatta assieme agli Scappè o Escape a scelta. A questo punto a noi sono piaciuti molto, tra l'altro il pienone, pensiamo, la serata con 14.000 presenze. Una piccola Ceggia tutta in un posto e non per il carnevale, signori. I ragazzi vengono dalla steppa. Eh sì. Perché da dove arrivano? Dall'Ucraina e giù per di là, no? Sì, poi si sono Qualcuni trasferiti abilmente negli Stati Uniti con quello chiamali scemi. Con quello che è l'emigrazione clandestina. Tra l'altro c'è un sodalizio tra il cantante e Madonna che lo ha voluto per parecchi... Hanno anche cantato in un mashup con la Isla Bonita. Pensati te. I ragazzi, in più, volevo dirti questa cosa, fanno parte della colonna sonora di un ottimo film che è Ogni Cosa Illuminata, estratta dal libro di Jonathan Safran Foer, che noi abbiamo presentato a Overbooking, ma con un altro testo. È vero. Salutiamo anche la redazione di Overbooking, qui rappresentata. Siamo ancora un po' noi, più tutti gli altri ragazzi che ci aiutano per Overbooking, e quindi partendo da Giulia, Nando, Matteo, Alice, che in questo momento è a Bora Bora a vedere gare canoistiche. Salutiamo anche Gogol Bordello all'album Multicontra del 2002, questa è Through the Roof and Underground. zoo. And if you want it, you always have to make your own fun. And I see upper dog leisurely sighing. The local cultures are dying and dying. The programmed robots are buying and buying. And oh, secluded freaks, they are still trying, trying. Between their father's lies, and Boy Scouts ask, Pa, where do they go? They go to the country that they only know. Just like the meanings, they lay between the lines. Between the borders, the real countries hide. Their strategy was, oh, they advertise. Their strategy of being is one of in your face disguise. Oh, oh, oh, through the road underground. Oh, oh, oh, through the road underground. Will be discombobled around the stump of bigotry abroad. Серебряные зайцы водят хоровод. Through the roof and underground. No, ecco, non lanciarti in queste cose in cui canti, per piacere. Vabbè, era solo per assecondare la canzone. Bentornati, Music for Youth, questa era Through the Roof and Underground dei Gogol Bordello, l'album Multicontra del 2002, From Russia with Love. Esattamente, sempre sui 97.8 di Radio Sherwood, sui 102.2 di RSD. E è il turno delle mappe. Delle mappe. Dal Belgio. Un altro gruppo che vi consigliamo caldamente per i vostri momenti invernali in cui vi sentite tristi, soli, e c'è del sacrosanto pessimismo cosmico. Anche perché prendendo gli Spiritualized, i My Bloody Valentine, i Galaxy 50, non c'è tanto da dire. Allora, MAPS, gruppo belga, molto poco conosciuto, se dobbiamo dire la verità. Un'altra indicazione che vi possiamo dare come riferimenti, beh, probabilmente gli Explosion in the Sky, ma questi, a differenza degli Explosion, parlano. Anche i Mogwai e Low, in qualche modo, sì. I Low dovremmo mettere più qualcosa. Anche prima i Mogwai dovremmo anche mettere qualcosa. Ma è che sono strumentali, per cui ci scassiamo abbastanza le palle. Cioè, parlare in francesismi. Sì, Daniele Terzariol, recentemente ritornato dall'Accademia della Crusca. Immaginavo. Andiamo a ascoltare tutte telefonate. Questi poveri Maps, che tra l'altro hanno cercato di vincere il Mercury Prize, ma se lo sono portati a casa i Klaxon, io li avrei dato a loro. Sì. Andiamoceli a sentire, questa è Music for Youth e questo è il loro pezzo che è To the Sky. Maps su Music for Youth. Questa era To the Sky, il penultimo pezzo in chiusura di puntata. Ospiti con noi i My First Second, che hanno presentato la loro traccia Radio Pop. È il momento, cari My First Second, di fare i ragazzi seri, quanto non siete, per 365 giorni all'anno, e ricapitolare tutti i vostri contatti e le date successive alla data di questa trasmissione per appuntamenti vari e concerti. Allora, ci potete trovare sul MySpace, dove ci sono tre tracce in anteprima del CD appena uscito La Macchina del Tempo, che era ricordato per la copertina figa e basta. Su Facebook, Twitter, per sapere in tempo reale gli aggiornamenti sulle nostre date. E inoltre vi ricordiamo appunto come data l'8 gennaio a Musile di Piave, con un gruppo da Piacenza, i Tauf. Da Piacenza. Da Piacenza. Si fanno in chilometri. Piacenti da Piacenza. Bene, noi vi ringraziamo. Ai nostri due. No, noi ringraziamo voi in realtà. Cioè, non, non vederla così. Cioè. Per rendere più potabile questa trasmissione. Noi vi salutiamo. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Sandonà e Radio Sherwood. I nostri due DJ. DJ, sì. Va bene, farla va grossa, bene. Sì, dai. Cioè, no, speaker, no, una roba del genere. I vocals. Esatto. I vocalist. Esatto. I vocalist, una figura molto in voga negli anni 90. Tu fai Zappa là, io faccio Lady Brian. Lady Brian, ti ricordo che ha dei capelli ossigenati. Quindi domani, okay, domani vedi di provvedere. Ci penso io. My First Second, noi vi ringraziamo. Volete salutare qualcuno a casa? Promettere dei soldi? Avete dei parenti in Belgio che... Sì. Vedi? Davvero? Sì. Hola. No, proprio per niente. Vabbè, dai. Noi ci salutiamo tutti quelli del Belgio. Noi ci speriamo sempre, perché in Belgio c'è una rete di contatti che ci segue intensamente. E anche delle miniere di carbone. Nelle miniere di carbone, quanto quelle del Cile, risuona ampio e potente il suono dei Junip. Eh sì. Junip, Junip. Non dirlo con tono insufficienza, perché abbiamo ben poco da dire su di loro. Junip, non c'è tanto da dire sui Junip, in effetti. Progetto parallelo di José González, che a me piace tanto per Solo Pianos, però fa anche questi Junip. Cosa stai dicendo? Non è lo stesso González. Non importa, beh, era una della pubblicità per... non è neanche lo stesso González a cui hanno buttato un braccio nel Vicenza. Esatto, ma bravissimo. Sentitevi González, quello che suona il piano, molto bravo. Questo González, meno bravo, e fa i Junip. Fa i Junip, viene dalla Svezia e per metà di Israele. Sì. E ha parenti in Sud America, non chiedermi altro perché non e mi ricordo. Anche in Belgio. Assolutamente niente, sto andando a braccio. Si ricorda per una cover di Earthbeats dei suoi parenti svedesi, The Knife, che era un pezzo dance, e lui l'ha rifatta ottimamente in chiave acustica, anche per delle cover dei Massive Attack e di Joy Division, a noi sempre cari. Non so, ai My First Second sicuramente ci stanno sulle palle i 30 Second to Mars. Morite marci, per cortesia. Marci o martiri, anche, perché così vi ricorderemo in un calendario. A questo punto González ha questa costola che usa per... ci aveva già fatto un EP, poi si è dimenticato di questi altri suonatori, li ha lasciati lì chiusi in una stanza, e dopo un po' il suonatore in una stanza puzza. A questo punto facciamoci un disco. Noi da questa stanza usciamo, cioè dagli studi di Music for Youth, ci risentiamo la prossima settimana. Ringraziamo ancora una volta i My First Second, grazie ragazzi per aver reso potabile questo programma, che più delle nostre due voci. Qualcosa di noiosissimo. Junip su Music for Youth, Radio Shell 97 800, Radio Sandonà 102 Rope and Summit. Questo è il loro nuovo singolo.